La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata della Quota Rosa e oggi parliamo di avvocatesse. Sì, anche le avvocatesse hanno un'anima e soprattutto anche le avvocatesse diventano mamme e quindi hanno diritto ad allattare, a prendersi l'aspettativa di maternità e insomma ad avere più tutele. È questo quello che chiede l'Unione Camere Penali, che ha deliberato sul tema il 5 giugno scorso: adottare norme di legge che garantiscano l'effettività del diritto di difesa tecnica nel processo penale, eliminando ogni impedimento al suo esercizio, primo tra tutti quelli discendenti dal diritto alla maternità e paternità del difensore. Insomma, quanto la maternità o la paternità possa entrare in contrasto con quello che è il diritto di un imputato ad essere difeso, soprattutto in un processo penale. Che cosa si fa se c'è udienza e magari l'avvocatessa in quel momento è impegnata in qualche visita medica perché in stato interessante? Per parlare di questo abbiamo oggi con noi Ludovica Giorgi, segretario nazionale dell'Unione Camere Penali. Buongiorno. Buongiorno. Augusta Iannini, capo ufficio legislativo Ministero della Giustizia. Buongiorno. Buongiorno. E poi tra poco avremo anche Isabella Rauti, capo divertimento delle pari opportunità. Ludovica Giorgi è autrice di una lettera, proprio di un documento trasmesso dall'Unione Camere Penali al Ministero della Giustizia e al Ministero delle Pari Opportunità, nel quale si richiede di sanare una situazione proprio che rende difficile l'attività professionale delle avvocatesse. Insomma, il fatto che la maternità e l'allattamento non siano considerati legittimo impedimento. Ce lo vuole spiegare in parole povere, intanto per fare capire? Io sono un imputato, lei come avvocato, e lei in questo momento è incinta. Cosa succede? Sì, è un bel problema per lei, diciamo. Vabbè, ora le spiego. Innanzitutto vorrei chiarire che più che di una lettera si tratta di una delibera che ha adottato la Giunta dell'Unione delle Camere Penali. Noi siamo 13 componenti in quello che è l'organismo direttivo dell'Unione delle Camere Penali, di cui soltanto due donne. Quindi per fortuna è stata adottata all'unanimità e quindi con la piena condivisione di tutti. Qual è il problema? Lei ha impostato perfettamente il problema, cioè il diritto di difesa dell'imputato. L'imputato ha diritto di scegliersi il difensore che vuole, o comunque in mancanza avrà un difensore d'ufficio, e l'imputato ha diritto alla stabilità di quel difensore e che quindi quel difensore lo possa seguire nell'intero arco del processo. È ovvio che ci sono tutta una serie di situazioni in cui un difensore può essere impedito e la legge in effetti contempla la possibilità che il difensore chieda un rinvio laddove ci sia un legittimo impedimento. Qual è il punto dolente? È vero che norme simili si possono prestare anche a abusi, è evidente, ma è altresì vero che la giurisprudenza, sia di merito dei tribunali che della Corte di Cassazione, ne dà un'interpretazione fortemente riduttiva, in qualche modo pretendendo che l'avvocato impedito si faccia comunque sostituire o comunque rinunci all'incarico difensivo. Allora partiamo dalla sua domanda. Lei ha me come difensore e io poniamo che sono in situazione di difficoltà perché sono in condizione di gravidanza, oppure ho appena partorito, oppure devo allattare mio figlio. Io proverò a chiedere al tribunale che ritenga legittimo il mio impedimento e rinvii, ma ci sono allo stato delle pronunce della Corte di Cassazione che in condizioni di questo tipo negano il diritto al legittimo, a far valere il legittimo impedimento e quindi a ottenere il rinvio del processo, arrivando persino a dire: siccome si tratta di una situazione che non si è presentata improvvisamente, già lo sapevi, tu difensore dovevi, dice letteralmente la Cassazione, operare un'opportuna e tempestiva revisione dei tuoi impegni professionali e non pretendere di mantenerli a scapito delle esigenze di giustizia. Quasi che si chiedesse alla donna avvocato, o comunque poniamo anche a un avvocato chiunque, di qualunque genere, che abbia da sostenere magari un intervento chirurgico di particolare complessità, eccetera, lascia quell'incarico difensivo o comunque non lo prendere. È ovvio io il pregiudizio per, in questo caso lei, la mia interlocutrice, mi ha assistita, che si vede negato comunque il diritto di avere me come difensore e di averlo stabilmente. È un caso abbastanza paradossale quello della maternità, perché laddove la legislazione riconosce comunque implicitamente una pericolosità dell'attività lavorativa in quei 5 mesi e quindi lo riconosce con una presunzione, in questo caso per noi libere professioniste questa presunzione non opera. Noi chiediamo che la presunzione operi anche per le libere professioniste. Insomma, equiparare il vostro, la vostra maternità a quella lì dei magistrati, tanto per capirci? Sì, quella che giustamente hanno le donne magistrato. Giustamente hanno le donne magistrato. Perfetto. Ma qui proprio non è, noi non siamo tanto intervenuti per tutelare le donne, per tutelare comunque il diritto dell'imputato a essere stabilmente difeso da colui che si è scelto o che lo Stato gli ha dato, gli ha scelto in caso di difensore d'ufficio e che si prende a cuore il suo processo dall'inizio alla fine. E quindi che cosa chiedete? Di rimandare il processo, di rimandare le udienze? Questo che non ho capito. Sì, quello che noi chiediamo è questo, che siano adottati interventi legislativi o tramite protocolli, queste poi sono forme che dovremmo studiare. Tradotto in italiano vuol dire che se io vengo difesa da lei e io ho scelto lei come mio avvocato e lei è incinta, questo processo viene congelato fino a quando lei... Noi vorremmo semplicemente, non si tratta di congelare, che prodotto il certificato che attesta, poniamo che lei è incinta, che io fra un mese si parla di quei 5 mesi, 2 più 3, no? Che io fra, che fra entri un mese, in maternità e vi è la verosimile, vi sarà il verosimile parto, ciò valga a attestare il mio legittimo impedimento a essere presente a quell'udienza, che a quel punto verrà rinviata 4 mesi dopo. E quindi quando... un congelamento del processo di 5 mesi praticamente, in pratica, no? Di quei 5 sì. mesi che noi sappiamo che sono i 2 prima del parto e i 3 dopo il parto. Sì, chiamiamolo un congelamento, è un rinvio. Un rinvio. Sì. Questo per sì. il processo penale, ovviamente, non stiamo parlando di processo. Noi parliamo del processo penale. Il processo penale impegna in prima persona. Certo, allora. Però è ovvio che laddove il processo, la causa di qualunque natura sia, impegni in prima persona, deve valere per forza anche per le altre. È chiarissimo. Persone. Allora, la dottoressa Giorgi ci ha esposto quello che chiede l'Unione Camere Penali. Che cosa risponde Augusta Iannini, capo ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, che noi abbiamo anche con il nostro giornale intervistato recentemente per darci una bella notizia: le pari opportunità nella giustizia non sono più un miraggio e praticamente negli ultimi concorsi in magistratura le donne sono state ammesse con una percentuale superiore al 50%. Quindi abbiamo buone notizie, però abbiamo anche un po' di problemi, come ci dice Ludovica Giorgi. È possibile far sì che il processo venga rinviato di 5 mesi se l'avvocato è in maternità? Allora, guardi, io credo che l'avvocato Giorgi abbia ragione. Perché? Perché in realtà il problema è legato, connesso al fatto che mentre l'avvocato Giorgi è una libera professionista, tutti coloro che invece hanno un rapporto di lavoro dipendente si vedono applicata la legge di tutela delle lavoratrici madri. Ma il problema che segnala l'avvocato Giorgi credo che sarebbe stato risolvibile anche con un'interpretazione intelligente del legittimo impedimento. Ma poiché questa interpretazione diciamo non c'è stata o comunque è estremamente difficoltosa, io credo che la via segnalata, che è quella di adottare eventualmente dei protocolli che tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo, il Presidente del Tribunale, già possa in un primo momento, per una copertura immediata, cercare di risolvere il problema. Certo, da questo punto di vista credo che anche un intervento normativo sarebbe assolutamente condivisibile, e quindi assimilare al legittimo impedimento i periodi di astensione obbligatoria del lavoro che valgono per le lavoratrici madri che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, e quindi 2 mesi prima e 3 mesi dopo. Credo che un congelamento di 5 mesi di qualunque procedimento nel panorama complessivo dei tempi del processo penale non sarebbero assolutamente disdicevoli o non porterebbero certamente a dei grossi disguidi di natura organizzativa. Ecco, noi però sappiamo che l'Italia è sotto la scure, dottoressa, presidente Iannini, sotto la scure dell'Unione Europea per quanto riguarda la durata dei nostri processi. Quindi questo va contro quello che sarebbe l'esigenza della magistratura italiana. Come si risolve? Questo potrebbe sicuramente creare qualche problema, però credo che questo passo che noi stiamo facendo, che è un passo sempre più lungo verso un discorso di pari opportunità, credo che sarebbe capito a livello della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quanto a ragionevole durata del processo, quindi credo che noi ci dobbiamo preoccupare di altre disfunzioni, non quello di rendere effettiva la parità uomo-donna da questo punto di vista. Isabella Rauti, capo Dipartimento delle Pari Opportunità, avete intenzione di fare qualcosa proprio per sostenere la tesi della dottoressa Giorgi? Risponderei che stiamo già facendo qualcosa. Efficientissima come al solito, la dottoressa, la professoressa Rauti è sempre efficientissima, questo Dipartimento delle Pari Opportunità non dorme mai. La ringrazio, cerchiamo però di dimostrarlo. Allora, dunque, intanto saluto l'avvocatessa Giorgi e il capo ufficio legislativo Iannini, e mi pare che abbiano tracciato il perimetro con una tale chiarezza che sarebbe superfluo aggiungere ulteriori elementi in merito. Posso però, per rafforzare proprio i concetti esposti e anche per sottolineare il nostro coinvolgimento, fare un passo indietro che ci aiuta e non è dispersivo, nel senso che noi abbiamo presso il Dipartimento per le Pari Opportunità una commissione che ha il compito di attuare un protocollo d'intesa sottoscritto già nel gennaio 2009, anzi rinnovato diciamo nel gennaio 2009, un protocollo d'intesa tra appunto il Dipartimento e il Consiglio Nazionale Forense. Dico questo perché questa è la premessa dalla quale partire. L'attività della Commissione si è concentrata già da tempo, siccome il fine della Commissione è valorizzare la presenza femminile nella professione forense, evidentemente rientrano tutti gli aspetti, anche quelli di criticità, appunto come è stato sottolineato. La Commissione in realtà nel corso delle sue riunioni aveva già affrontato, sollecitata proprio anche dal Consiglio Nazionale Forense e dalla sua Commissione per le Pari Opportunità, questo argomento. È evidente che quando è arrivata, e io personalmente l'ho guardata con estrema fiducia e soddisfazione, è arrivata la delibera a cui è stato fatto riferimento, evidentemente la Commissione si è riunita per valutare con maggiore attenzione. Quindi nel merito noi condividiamo la richiesta, condividiamo il bisogno e credo che diciamo il nodo sia quello di contemperamento tra un diritto alla difesa e un diritto, come è stato detto, alla maternità. Rispetto alla domanda che lei appunto mi ha posto, in realtà noi stiamo già lavorando in questo senso e ci eravamo già posto il problema. Noi immaginiamo di studiare, anzi per esattezza dico che l'ufficio legislativo del nostro Ministero ha già avviato questo studio di una ricognizione normativa per verificare appunto una possibile estensione della tutela della maternità, diciamo, al lavoro autonomo, quindi analogo più o meno direi a quello del lavoro dipendente. Noi dobbiamo forse arrivare a studiare, sono particolarmente contenta anche di questa interlocuzione con la dottoressa Giorgi e con la dottoressa Iannini, un protocollo di intesa che coinvolga evidentemente il Ministero della Giustizia, il nostro Ministero e il Consiglio Nazionale Forense. Credo che questa sinergia possa veramente affrontare il nodo e risolverlo. È evidente che per affrontare il nodo e risolverlo bisogna addivenire a un intervento legislativo vocato proprio a questo. In linea di principio noi siamo assolutamente d'accordo, perché come è stato chiaramente esposto diventa una sorta di discriminazione rispetto a un diritto, quello della maternità, ma anche poniamoci il problema diritti alla paternità, per cui sostanzialmente noi con un intervento legislativo che risolvesse questo problema non facciamo altro che dare concretezza e attuazione ai principi costituzionali di parità e di pari opportunità. Quindi credo che sia necessario un lavoro evidentemente di sinergie tra gli interlocutori coinvolti e interessati, ma credo che il principio che è stato, come posso dire, sottolineato sia assolutamente sacrosanto. Allora, adesso affrontiamo un altro argomento, perché mi sembra che la domanda di Ludovica Giorgi abbia avuto risposta, che è quello della rappresentanza nel mondo della magistratura delle donne a capo di alcuni dipartimenti. Insomma, le donne che indossano la toga, si legge nel nostro quotidiano Il Sole 24 Ore, sono sempre più numerose, ma non corrisponde a una pari dislocazione in tutti i settori dell'ordine giudiziario. La rappresentanza delle donne nelle posizioni di maggiore responsabilità rimane fortemente minoritaria. Nel 2007 nei posti direttivi, presidenti di sezione della Cassazione, di corti d'appello, di tribunali, di capi delle procure, si trovava solo il 4% di donne, mentre ai posti semidirettivi, giudici di Cassazione, di tribunali, di corti d'appello, sostituti procuratori, circa l'11% del totale. Si riscontrano però segnali di cambiamento. Nel 2008 le donne a capo di un ufficio giudiziario erano 40 contro le 10 del 2007 e una buona parte di loro è andata a guidare una procura. Ludovica Giorgi, lei è avvocato e la controparte, va bene. C'è una discriminazione, secondo lei, nel mondo della giustizia riguardo alle donne ancora oggi? Magari, non so, come avvocato si rivolgono a lei soprattutto per le cause di divorzio, per l'affidamento dei figli, visto che lei è una donna, capito? Magari per dei processi per stupro, però quelle cose un po' tecniche, tipo, non so, i processi un pochino più pesanti, è meglio darli a un uomo? C'è ancora una discriminazione a diversi livelli. Uno studio che, se non sbaglio, ha commissionato il CNF, credo al Censis, ma non mi vorrei sbagliare, dava atto proprio di questo, e cioè dava atto della preferenza, per esempio, verso il difensore uomo che non rispetto al difensore donna, tranne che nel settore diritto di famiglia. Si rivolgerebbero volentieri a me per il diritto di famiglia, ma con me funziona male, posto che io faccio la penalista, e quindi solitamente trovano un diniego. Però mi rendo conto che tuttora, perché probabilmente forse non ha, la gente non ha molto la consapevolezza della specializzazione, mi capita di ricevere richieste di assistenza in questo senso, che poi io, diciamo, alle quali poi ovviamente rinuncio necessariamente, perché non è il mio settore. Quindi sicuramente c'è questo, c'è anche una diversità di guadagno. Non c'è dubbio, a parità di età e di anzianità professionale c'è una diversità di guadagni. Cioè si guadagna più con il processo civile? No, non è questo. C'è una diversità di guadagno fra generi. Il genere maschile, gli avvocati guadagnano di più delle donne. Guadagnano di più a parità di anzianità, non solo. E ancora, le faccio l'esempio dell'Unione delle Camere Penali. Nella giunta dell'Unione delle Camere Penali siamo 2 donne su 13. Io credo di essere la prima a occupare il ruolo di segretario. Fra i presidenti delle camere penali locali, quindi delle associazioni locali di penaliste, se non sbaglio le presidenti sono 3 o 4 su 130 camere penali. Insomma, c'è da fare strada. Allora sentiamo un attimo Augusta Iannini, capo ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Quando è che avremo, che ne so, il capo, il procuratore capo di Roma o di Milano donna? Noi ce lo sogniamo ogni tanto, no? No, guardi, allora sicuramente c'è un problema. Noi siamo entrati in magistratura più tardi rispetto agli uomini, quindi è una cosa assurda, ma fino al 1962 le donne non erano ammesse al concorso in magistratura. Quindi dobbiamo superare questo gap temporale. Dobbiamo superare altri problemi, che sono quelli della compatibilità con gli impegni familiari, perché normalmente per fare carriera bisogna spostarsi sul territorio e spesso le donne non sono favorevoli ad andare fuori dal luogo dove hanno la loro residenza con il marito, con la famiglia, perché questo comporta dei grossi disagi anche a livello familiare. Non c'è il procuratore della Repubblica di Milano, però c'è il presidente del Tribunale di Milano, che è una donna molto autorevole, che è la dottoressa Pomodoro. Quindi in realtà noi stiamo recuperando veramente in maniera molto molto vivace tutte le posizioni che non abbiamo occupato nel passato. Nell'amministrazione, devo dire, io nel Ministero della Giustizia sono stata prima direttore generale, poi capo del Dipartimento, adesso sono capo dell'Ufficio Legislativo. Lei pensi che nel 2004 nel mio Dipartimento c'erano soltanto donne a capo degli uffici di direzione generale, con una sola eccezione, un uomo soltanto, che devo dire si trovava anche abbastanza bene con noi. Quindi da un punto di vista di amministrazione io questa discriminazione francamente non l'ho sentita, non l'ho subita. In magistratura ancora ci sono dei problemi, ma sono legati alle tematiche che le ho detto prima. Allora, sentiamo invece la dottoressa Rauti, che cosa bisogna fare per incentivare di più i magistrati donna e l'ingresso su cariche, in cariche diciamo più consistenti rispetto alla base. Ma intanto questa potrebbe un po' essere una metafora, perché in realtà quando ci poniamo questa domanda, cioè incentivare le progressioni di carriere nel settore di cui stiamo parlando, tranquillamente noi potremo, infatti lo facciamo, estendere questo principio a tutti gli altri settori lavorativi. Questo principio è un principio, ripeto, che è diritto costituzionale. Anche recentemente il Presidente della Repubblica Napolitano, intervenendo al premio Belisario, che era proprio dedicato al tema che noi affrontiamo oggi, ha richiamato il principio costituzionale di pari opportunità e uguaglianza di genere nel mondo del lavoro e delle professioni. E non dimentichiamo che la modifica dell'articolo 51 ha consolidato e anche esteso e rafforzato tale principio di opportunità. Io credo che però sia evidente, e i dati li avremo tutti, che esiste in tutti i comparti lavorativi una sorta di, viene definita, di imbuto rovesciato, se preferiamo di piramide, cioè anche lì dove c'è un concentrato femminile lavorativo esteso, se noi andiamo a osservare le posizioni apicali e professioni di carriere, naturalmente assistiamo a un drastico restringimento, in taluni casi ad un crollo. Per quanto riguarda la carriera in oggetto, come è stato già detto, dobbiamo anche recuperare del tempo perduto, perché questa è stata una carriera che, come si ricordava, si è aperta al mondo femminile soltanto intorno agli anni 60, quindi pochi decenni fa in definitiva. Ma se noi parliamo invece, per esempio, del comparto, e noi ce ne occupiamo direttamente, della pubblica amministrazione, tradizionalmente con uno straordinario concentramento di presenza femminile, anche lì le situazioni dal punto di vista quantitativo non sono proprio consolanti. Allora evidentemente ci sono dei problemi che vengono definiti tecnicamente discriminazioni o segregazioni professionali in taluni casi, in altri, in tutti i casi, discriminazioni orizzontali e verticali, ma forse la questione di fondo credo che sia sempre e comunque, qualunque siano le professioni e i lavori che si scelgono, una questione risolta di, come si dice tecnicamente, di conciliare, di consentire di casa conciliare. Casa e famiglia, diciamo. Allora noi ringraziamo, perché il tempo a nostra disposizione è finito, Ludovica Giorgi, Augusta Iannini e Isabella Rauti. La quota rosa. Ci sono regimi da operetta, da farsa e da tragedia. Ci sono ragazze che dichiarano ai giornali: quando ci riesco faccio la ragazza immagine. Per esempio, sono stata biglionerina per 3 anni. Ricordo che Fede mi promise di fare la meteorina. E ci sono le loro coetanee, molto lontane da Palazzo Grazioli, che scendono a manifestare per la democrazia e non tornano a casa la sera. Gli occhi di Neda, 16 anni, cancellano ogni altro pensiero. Non so quanti di voi abbiano visto il video sul web, gli spari, i suoi occhi sgranati, le urla degli amici e del padre. Un editoriale, questo, di Concita De Gregorio, direttore dell'Unità, un editoriale fatto lunedì, ma noi vogliamo riprenderlo per capire che cos'è, che cosa vuol dire essere donna in un paese così diverso come l'Iran, e che cosa vuol dire invece la volgarizzazione della figura femminile che sta avvenendo in Italia. Buongiorno Concita. Buongiorno a voi. E intanto congratulazioni per la tua nomina. Oramai da quanto tempo è che dirigi l'Unità? Sono 10 mesi, andiamo, fra poco sarà un anno. Questa grandissima avventura? Sì, molto bella devo dire, è stato all'inizio insomma una grande scommessa, quindi non facile ma molto molto molto appassionante. Poi come forse saprai anche tu, l'Unità è molto cresciuta, sono cresciuti i lettori, sono aumentati i contatti sul web, abbiamo più di 50.000 persone che comprano il giornale in edicola, è una bella soddisfazione per tutti noi. Che è un giornale di partito, però poi si un po' svicolato dal PD. Ma sì, guarda, l'Unità da molto tempo non è più un giornale di partito, in particolare da aprile dell'anno scorso ha un editore che è una persona fisica, un imprenditore che è Renato Soru. Adesso proprio in queste ore ci sarà un aumento di capitale col probabile ingresso di nuovi soci, quindi il partito, come dire, naturalmente rimane un riferimento importante politico, ma poi è un giornale di tutti tra l'Italia che resiste e che fa opposizione. Che resiste. Allora, resistiamo. Tu hai fatto questa associazione tra quelle che erano le biglionerine, insomma, cioè una persona che ci dice che la differenza tra ragazza immagine ed escort, che noi non conoscevamo, non sappiamo nemmeno che l'escort era qualcosa che aveva a che fare con il mestiere più antico del mondo, pensavamo fosse una macchina, capisci? E questa è l'Italia. E poi invece tu dici in altre parti del mondo ci sono donne che combattono, che addirittura perdono la vita per il proprio paese. Sì, perdono la vita in altre parti del mondo, ma anche in Italia ci sono donne che combattono. Adesso non deve passare il principio che le donne italiane stanno tutte nei bagni di Berlusconi a truccarsi aspettando il loro turno e che invece solo all'estero esistono esempi, come dire, no, di insomma altri modi di spendere il proprio tempo e la propria giovinezza. L'Italia è piena di giovani ragazze che fanno la loro resistenza, per esempio facendo ricerca a proprie spese perché non trovano un posto nell'università o impegnandosi a fare 6 o 7 diversi lavori tutti precari pur di inseguire il loro sogno di sapere, di conoscenza, di lavoro, di maternità, di una vita possibile. Quindi ci sono tanti modi per fare resistenza. Quello che io volevo dire in quell'editoriale è che siccome proprio lo stesso giorno noi abbiamo visto le immagini drammatiche di questa ragazza di appena 16 anni che è uscita per manifestare nel suo paese, in piazza a Teheran, per manifestare per la libertà, per la democrazia, per il diritto di esprimere il proprio voto ed è stata uccisa, e appunto nello stesso giorno abbiamo visto pubblicate sul web, sui giornali, le immagini delle nostre giovani protagoniste dei rotocalchi, queste escort, queste ragazze immagini milionerine o meteorine o letterine che dalla giovane Noemi in poi popolano ogni giorno le nostre cronache e anche, devo dire, la camera da letto del Presidente del Consiglio. Anche da madre vorrei dire che vedo nella classe di mio figlio adolescente che le ragazze hanno sostituito il book al curriculum vitae e penso che noi dobbiamo anche proporre, diciamo, un modello di vita e di impegno e di resistenza per tornare all'inizio diversa. Non c'è solo la strada del book per farsi avanti nella vita, no? Cioè, spesso anzi porta fuori strada, piuttosto la passione in quello in cui si crede è la cosa da coltivare. Naturalmente l'esempio di Neda è un esempio drammatico, ma è drammatico e luminoso insieme. E tra l'altro nello stesso giorno in cui queste due cose accadevano, noi abbiamo inaugurato sull'Unità una striscia satirica della giovane Zeina, che è una artista franco-libanese che racconta della sua del suo esilio, diciamo, in Francia. Lei viveva a Beirut e ci viveva negli anni della guerra da bambina e racconta come sua madre le raccontasse favole ad alta voce per non farle sentire il rumore della guerra. Un'altra giovanissima, Zeina, che ha appena pubblicato un libro anche in Italia, e come dire, è un'altra donna del nostro tempo. Detto questo, se me lo permetti, Elisabetta, io vorrei anche dire una parola a proposito delle ragazze che ora chiamiamo escort, perché c'è un aspetto denigratorio in tutto questo che le riguarda, che è molto ingeneroso, perché poi bisogna sapersi mettere nei panni degli altri. Per esempio, di questa Patrizia Daddario, che è la giovane barese che ha dato il via all'inchiesta, al cosiddetto Bari Gate, no? La ragazza che ha passato la notte delle elezioni di Obama presumibilmente nella camera del Presidente del Consiglio. Questa donna, perché è una quarantenne, forse anche qualcosa di più, ha una storia, una vicenda tragica alle spalle. Lei racconta la sua storia, l'ha raccontata ai magistrati, l'ha raccontata sui giornali, ed è la storia di un, come dire, in qualche modo anche lei si batte con degli strumenti che sono quelli che ha trovato e quelli che si è data, ma per risarcire un'ingiustizia che è quella di questo padre che si è suicidato perché non aveva ottenuto la possibilità di lavorare e di vivere con le sue sole forze, con le sue risorse nel suo paese, e quindi chiedeva impropriamente, con metodi naturalmente sbagliati, ma chiedeva al Presidente del Consiglio che le desse questa concessione edilizia per la quale il padre aveva tanto lavorato e che non era riuscito ad avere. Quindi anche in questo caso, dico questo per dire che poi bisogna sapersi mettere, come direbbero gli inglesi, nelle scarpe degli altri. Anche in questo caso c'è una persona che viene da una storia di sofferenza e che ha una figlia da mantenere, una madre da mantenere. Sì, no, ma infatti sono poi questi retaggi anche molto molto tristi, perché dietro queste ragazze c'è un vuoto sia di valori, ma anche molto spesso un vuoto economico, cioè delle condizioni abbastanza dure, no? Soprattutto mi sembra che sia l'unico modo che loro individuano, e questo per tornare all'inizio, mi sembra che sia l'unico modo che oggi una giovane donna di bell'aspetto individua per risolvere il suo problema, qualunque esso sia, che sia un problema familiare. C'è un'altra ragazza che dice: mi ha dato 10.000 euro perché gli ho detto che non riuscivo a mantenere mia figlia. È come se fosse passato il principio che rispetto a un problema familiare, personale, appunto addirittura pratico nelle cose della vita, l'unica possibilità di uscirne sia non affidarsi alle strutture di uno Stato che dovrebbe funzionare per aiutare chi ha questo genere di bisogni o facilitarlo, ma alla fortuna dell'incontro con una persona potente e famosa alla quale dai in cambio quello che hai da dare e chiedi che risolva il tuo problema. È come dire, è un modo che è indegno di un paese democratico in cui tutti dovrebbero avere le stesse possibilità e gli stessi diritti. E questo è proprio il punto. Allora, noi abbiamo in linea anche Sofia Ventura, collaboratrice di Fare Futuro e autrice dell'articolo Donne in politica, il velinismo non serve. È stata una presa un po' di coscienza della destra, del Popolo della Libertà, dire alla vigilia delle candidature alle europee, insomma, non bisogna mettere le veline nelle liste elettorali, è vero? Buongiorno innanzitutto, non so se sia stata una presa di coscienza della destra, sicuramente credo che molti a destra come a sinistra abbiano condiviso questa riflessione, che è stata tutto sommato un po' casuale in quel momento, però evidentemente forse appunto con una certa dose di inconsapevolezza è andata a incidere su un bubbone, questo sicuramente. Io ho trovato molto interessante le parole che sono state dette adesso da Concita De Gregorio e la sua provocazione, mettendo appunto in parallelo la situazione delle donne in Iran, no? Noi vediamo che in questo momento le ragazze, le donne sono protagoniste di questa ribellione, di questa rivolta iraniana, e poi dall'altra parte vediamo invece la situazione italiana, che naturalmente non si può completamente specchiare in quello che oggi i giornali ci mostrano. Fortunatamente la società italiana e le donne italiane sono anche altro, però sicuramente quello che sta accadendo è una spia. Con un'altrettanta provocazione potrei dire: beh, tutto sommato per fortuna che le donne italiane non devono morire nelle piazze per avere la libertà, per essere riconosciute come persone, e quindi tutto sommato siamo fortunati. Sì, ma siamo una democrazia e loro sono un regime, quindi c'è una differenza notevole. No, appunto dico, siamo fortunati, no? Siamo fortunati, si dice sempre fortunato quel paese che non ha bisogno di eroi, e in questo senso noi siamo fortunati, però è vero, questa provocazione nel suo paradosso coglie una realtà che non è soltanto però quella delle veline, delle escort, di queste ragazze che trovano tutto sommato abbastanza normale usare la propria bellezza, ma direi qualcosa di più, il proprio corpo, per ottenere ciò che un tempo si riteneva dovesse essere insomma ottenuto con la fatica, col lavoro, con lo studio. E a me in realtà questo sembra un po' una punta di un iceberg, di un fenomeno forse non così eclatante, non così kitsch, ma molto evidente nelle nostre nuove generazioni, e lo dico da più che quarantenne che insomma insegna all'università dei ragazzi e delle ragazze di 20 anni, e cioè qualcosa sta accadendo nella nostra società, non so dire perché, però che non lo so, che ha ha costituito un salto generazionale importante, e cioè non c'è più la percezione che l'ambizione legittima, io sono una liberale, credo assolutamente nell'ambizione, credo assolutamente che sia giusto combattere per ottenere cose di soddisfazione personale, però non c'è più l'idea che tutto questo costa fatica e invece tutto è dato molto per scontato, e io questo lo vedo appunto un fenomeno che è fortunatamente qualitativamente diverso da quello delle veline, però lo vedo negli studenti universitari, probabilmente i professori di scuola potrebbero dire la stessa cosa, cioè non c'è più la capacità del sacrificio per ottenere dei risultati, e quindi la mia generazione che oggi si trova a insegnare a questi ragazzi spesso si trova un po' spiazzata perché ad esempio un voto viene rifiutato perché si dice ma come, io in fondo ho detto delle cose, c'è veramente un qualche cosa, però lì ci vorrebbe un sociologo forse che ci aiutasse a capire cosa sta succedendo, per cui le strade più brevi o le vie traverse, qualunque cosa, le va bene, scorciatoie. La quota rosa. E torniamo a parlare di veline, ma torniamo a parlare delle donne, sia in Iran che in Italia. Abbiamo sentito il parere di Concita De Gregorio, direttore dell'Unità, e di Sofia Ventura. Sofia Ventura ci parlava di scorciatoie, però a questo punto Sofia Ventura di Fare Futuro e autrice del famoso articolo Donne in Politica, lei è del Popolo della Libertà, che questo tipo di mercificazione del corpo femminile sia stato un pochino portato dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, non si può non affermare. Insomma, da dove nasce questa cultura di una mercificazione del corpo, che non vuol dire prostituzione, vuol dire comunque un velinismo, il fatto appunto la meteorina, non nasce da una concezione di sinistra. Ora io non voglio prendere parte né per la destra né per la sinistra, ma mi sembra che sia stata uno disgregamento di valori che ha poi una persona ben precisa come fine, che sarebbe il Presidente del Consiglio, o no? Sì e no. Posso rispondere io? Assolutamente. No. E poi sentiremo Concita De Gregorio per chiudere. Sì, no, dicevo sì e no, nel senso che non so se è una questione di destra o di sinistra, cioè ovviamente oggi Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio, è leader del centrodestra, però non è una questione di destra e di sinistra, è una questione sicuramente legata anche al Presidente del Consiglio. Ora io non credo che lui sia l'unico ad avere questi comportamenti, sicuramente può farlo in grande stile perché ha molti mezzi. Però, questo fatto dell'arem, del sultano. Sì, io credo che lì ci sia un problema legato alla provenienza professionale, se così possiamo dire, di Berlusconi imprenditore. Cioè Berlusconi è un uomo delle televisioni, è un uomo dello spettacolo che sicuramente in qualche modo porta una responsabilità, perché un certo modo di fare la televisione è partita dalle televisioni private, dalle sue televisioni, poi è stata tra l'altro adottata, potremmo dire, dalla televisione pubblica, che ha anche questa grande responsabilità di aver perduto il suo ruolo di servizio pubblico. Quindi è chiaro che lì c'è una responsabilità del personaggio Silvio Berlusconi, che in qualche modo ha contribuito a trasmettere un certo modello di donna, che però ha ben attecchito nella società italiana. Ecco, stiamo attenti, Berlusconi non arriva da Marte, Berlusconi si specchia un po' nella società, e una buona parte della società si specchia in Berlusconi. Questo non credo che sia questione di destra o di sinistra, io non sono mai stata di sinistra, mai mi riconoscerei in questi stili, e tante persone come me, ed è anche per questo che poi si è sollevato un problema all'interno della destra e del centrodestra, perché c'è anche un altro modo di essere, insomma, e c'è anche una tradizione. Ma lei vede un futuro senza Silvio, come dice il Financial Times? Beh, questo è nelle cose, dal momento che immagino che prima o poi deciderà di ritirarsi dalla vita pubblica, e quindi è chiaro che lo vedo e come, c'è chi sta lavorando per un dopo. Purtroppo una parte del partito non lo sta facendo, ma c'è una parte che invece sta riflettendo su come saranno le cose in futuro, sperabilmente senza veline. Concita De Gregorio, ricordiamo, direttore dell'Unità, che questo modo di vedere la donna, secondo te, appartiene a una cultura di destra più che a una cultura di sinistra, oppure è semplicemente un disgregamento di valori? Guarda, Elisabetta, io penso che non ci dobbiamo inchiodare a parlare di destra e di sinistra. Questa è una trasformazione nel sentire comune che viene avanti da molti e molti anni, non accade all'improvviso, cioè le generazioni si formano, i saperi si formano in decenni. Sono almeno 20 anni che sta cambiando, diciamo, il modello di comportamento. Quando noi parlavamo, quando io parlo dell'importanza della scuola, della formazione, dell'esempio che si fornisce ai ragazzi, non è un discorso retorico da Maestro Manzi o da Lodi, è un discorso che si riferisce al comune sentire di queste generazioni che vengono avanti e che adesso hanno, cioè le ragazze che oggi hanno 25, 30, 35 anni, sono quelle che sono nate, che sono state bambine negli anni 80. Allora, è da allora che è cambiato, certamente le televisioni commerciali, colpo grosso, i modelli, diciamo così, di successo femminile legati all'esibizione di sé sono partiti e sono passati attraverso la televisione, ma mica solo attraverso quella. Cioè il fatto che le donne debbano ritornare a ad avere un ruolo di sollazzo, di piacevolezza, di corredo, è qualcosa che passa attraverso le pubblicità, passa attraverso una certa letteratura, passa attraverso anche le parole di chi ci governa, per cui io dico che quando il Presidente del Consiglio dice alle ragazze sei carina, puoi sposare un milionario, dà un messaggio alle ragazze che è la vostra fortuna sarebbe sposare un milionario. Quando l'insegnante del liceo che frequenta la giovane Noemi a Napoli dice, d'altra parte, chi non vorrebbe conoscere una persona famosa, fosse anche un medico che ti fa le ricette, passa un messaggio attraverso la scuola, che è quello della scorciatoia, del colpo di fortuna, del contatto, della raccomandazione, del do ut des, della promessa reciproca. E infatti torniamo alla storia di questi giorni: il presidente mi aveva promesso che mi avrebbe dato una licenza edilizia, dunque sono andata a letto con lui, ma vuol come dire, cioè non è una cosa che succede oggi, è una cosa che viene avanti da anni e che è molto molto difficile e molto complicato contrastare, ma bisogna opporre un altro modello, indietro. Ma appunto è per questo che forse conviene indicare altri modi e altre vite e altri esempi e altre persone. Cioè io capisco che le ragazzine che fanno le elementari preferiscano diventare la Canalis piuttosto che Margherita Hack, ma Margherita Hack è un modello, Emma Bonino è un modello, non so, adesso parlo delle persone impegnate in politica in Italia, la ragazza che fa teatro, che fa letteratura in Francia, Esule, è un modello, la ragazza che va a manifestare a Teheran è un altro modello, il mondo è pieno di persone che fanno anche cose molto semplici, la ragazza che ha un'officina di moto e che ha imparato a aggiustare i motori è un modello, cioè ha avuto successo in una cosa che gli piaceva fare, che è quella di aggiustare i motori delle moto, la realizzazione passa da lì, da fare quello. Poi dopo, chi è che decide che cosa ti piace fare? Questo è il punto, perché poi se tu lo domandi a una ragazza di 16 anni, vuoi fare l'astrofisica, aggiustare il motore delle moto o fare la valletta a Striscia la Notizia, ti rispondono per lo più, la maggior parte, molte, se possono permetterselo dal punto di vista dell'estetica, e ti rispondono fare la valletta, e infatti chiedono per i 18 anni il naso nuovo, il seno nuovo, gli zigomi nuovi. Ma questo, cioè, diciamo, l'induzione di questo desiderio è una responsabilità collettiva della società. Cioè il desiderio nasce dalla proposta di quella soluzione come un modello fortunato e vincente, ed è un po' la, E l'altra faccia di questo è la cultura del condono, no? Cioè quella che dice, vabbè, rispettare le regole e coltivare il senso di responsabilità non serve a niente, perché tanto uno fa un po' come gli pare e poi dopo paga se c'ha i soldi, oppure aspetta una legge che lo... Non è questo il punto, cioè bisogna ritornare al senso di responsabilità individuale. E costa fatica, ma qualcuno lo deve pur fare. E noi cerchiamo appunto di instillare questo senso di responsabilità con Città De Gregorio, che invitiamo i nostri lettori a leggere i suoi editoriali, che sono sempre molto pungenti. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito. Thank you.